Io ho due qualità nella vita. Una è sicuramente la memoria. Sì. E l'altra non me la ricordo. Quel mazzolin di fiori che viene dalla monta. A quel mazzolin di fiori. È facilissimo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Noi mercoledì immaginiamo di intervenire sul Jobs Act, sugli interventi sulla scuola, sugli interventi. La legge sul lavoro, il famoso Jobs Act. Renzi parla come Magni. Che cosa vuol dire? Chiama Jobs Act Renzi, scusi, perché lo chiama con il termine inglese? L'abbiamo chiamato perché... Jobs Act perché abbiamo semplicemente. Abbiamo copiato perché ci piace copiare i democratici americani, ma lo possiamo chiamare piano lavoro. Credete che io ho fatto Job Act di Renzi, che è una cosa un po' ridicola, di titoletti, pensierini. Lo possiamo chiamare Guendalino, possiamo chiamare in tutti i modi, l'importante è che ci mettiamo d'accordo. Mi chiedo qual è la sua concretezza, perché ripeto, in questo Jobs Act, che io ridendo chiamo Steve Jobs Act, perché è molto creativo, ci sono, c'è tutta l'enciclopedia, no? Senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori. E insomma, abbiamo fatto una collezione di voci raccolte in questi ultimi mesi, perché è davvero da tanti mesi che se ne parla. Prima ci abbiamo messo un po' per capire come pronunciarlo, questo nuovo termine, certamente quello idoneo non è Guendalina, come ha detto Renzi, no Nicoletta? Diamogli il termine che ha, Jobs Act. Poi c'è stato il dibattito, anche molto duro, le parti sociali, i partiti divisi anche al loro interno, le polemiche sull'articolo 18. Alla fine, a quanto pare, la riforma del lavoro si sta concretizzando. È arrivato mercoledì il sì definitivo del Senato, ora il governo ha la delega del Parlamento sul lavoro e quindi può iniziare a produrre i decreti attuativi del Jobs Act, la riforma sulla riorganizzazione contrattuale e sugli ammortizzatori sociali voluta dall'esecutivo. Ci sono molte novità, sono anche importanti, ne hanno parlato e ne parleranno molte delle nostre trasmissioni, ne parliamo anche noi, ma come sapete Cuore e Denari si contraddistingue per il suo taglio di servizio, per cui oltre ad un commento che faremo con il nostro ospite, noi oggi vogliamo focalizzarci su cosa cambia nel concreto, cosa cambia per chi un lavoro ce l'ha già e per chi lo sta cercando e magari proprio in questi giorni prima di Natale. Chissà se c'è qualcuno che ci ascolta e sta negoziando una posizione con un'azienda. Noi lo auguriamo a tutti i disoccupati, soprattutto in circolazione. Quindi al di là di tutto il rumore e di tutto il dibattito che circonda questa riforma, oggi a Cuore Denari taglio concreto. 800 24 0024. Allora concretizzate questo tema con le vostre domande. E a proposito di rumore, Deborah, il rumore da traffico è un problema ambientale secondo solo all'inquinamento atmosferico, tanto che circa 30 milioni di europei sarebbero esposti a livelli di decibel considerati rischiosi. Quindi noi oggi parleremo naturalmente di udito. Se vi pare che il vostro udito in situazioni particolari non sia più, come si dice, quello di una volta, non esitate a chiamarci, ma chiamateci anche se vi basta un colpo di freddo per prendervi un'otite, perché se fino a questo momento le temperature sono state miti, per il Ponte dell'Immacolata arriva un brusco calo delle temperature. 800 24 0024, aspettiamo già sin d'ora le vostre telefonate. Vina, Vina, ho trovato lavoro, vista, un lavoro fantastico. Ah, Dio mio, che notizia. Che meraviglia. Certo. Dunque Pina, ti confesso che sono felice. Dunque, la direzione dell'Hotel Caprese mi ha chiamato in previsione dell'avvento della lira pesante. Questi vogliono modificare tutti i loro listini, vale a dire tutto il prezziario, per esempio, i menù, i listini della biancheria, insomma, tutta la loro contabilità. È un lavoro assolutamente delicatissimo e di grandissima responsabilità. Io devo con un pennarello cancellare gli ultimi tre zeri. Allora, questo Fantozzi ci provoca una risata un po' amara. Conosciamo i dati sulla disoccupazione, sappiamo che tanti si accontenterebbero di passare il tempo anche a cancellare i tre zeri, anche se magari il lavoro non è particolarmente qualificante, ma pur di avere un posto ci si accontenterebbe in questo momento anche di qualcosa di molto modesto. Il Jobs Act aiuterà davvero l'occupazione? Questa mattina c'è questa nuova fotografia scattata dal Censis che è impietosa, sono quasi 8 milioni i senza lavoro in Italia, un capitale umano sprecato, dice il Censis. Siamo un paese dal capitale inagito perché non riusciamo ancora ad ottimizzare i nostri talenti. Ci riuscirà il Jobs Act? Ci auguriamo di sì. Una bella domanda. Noi oggi vogliamo principalmente capire come funziona il riordino dei contratti e soprattutto che cosa significa per un lavoratore essere assunto a partire dalle prossime settimane con il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella speranza naturalmente che di questi nuovi contratti ne vengano firmati molti. Purtroppo lo sappiamo, l'economia non marcia ad un ritmo adeguato, c'è da sperare che le aziende riprendano ad avere ordine, a creare occupazione, perché è chiaro che questa situazione, discutere di contratti a volte sembra inutile. In ogni caso, per quei lavoratori che hanno in vista questa opportunità, cerchiamo di capire cosa cambia. Benvenuta, anzi ben ritrovato, l'avvocato Francesco Rotondi dello studio legale Lab Law, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per l'invito. Esperto di diritto del lavoro e quindi esperto neutrale oggi, anche se ha delle idee molto chiare e precise su questa riforma. Oggi però lo dobbiamo contenere e dobbiamo spiegare molto concretamente ai nostri ascoltatori che cosa devono aspettarsi nei prossimi mesi. 800 24 00 24, parlare di questo tema, Nicoletta, richiederebbe 20 puntate, magari da gennaio ma in avanti. Ma noi ci torniamo. Le faremo. Ecco, passetto dopo passetto. Certamente. Lei torna, avvocato, vero? Qua si trova bene, allora, meno male. Avvocato Rotondi, il contratto a tutele crescenti dovrebbe essere al centro del primo provvedimento attuativo del Jobs Act, no? A metà dicembre il governo dice che sarà in grado di formulare il provvedimento attuativo. Si tratta di una fattispecie contrattuale nuova per il nostro ordinamento o è una forma che già si conosceva? Allora, per il nostro ordinamento è assolutamente una fattispecie nuova, è una novità assoluta. È un'esperienza che altri paesi hanno già vissuto, a mente vi posso citare la Spagna, vi posso citare la Germania che sono paesi più vicini a noi. Dal punto di vista poi invece degli effetti di questo contratto, diciamo che avrà degli effetti che già conosciamo, magari con altri nomi, con altri titoli, però attualmente è una novità perché è il contratto a tempo indeterminato con una forma di tutele, come appunto viene denominato, tetere crescenti, che andiamo ad analizzare dopo. Per chi fosse in procinto di ottenere un'assunzione da parte dell'azienda, dobbiamo appunto specificare che è un contratto che riguarda tutti i nuovi assunti, quindi chi magari ha già un rapporto a tempo determinato con un'azienda che è in procinto di essere rinnovato, potrà essere rinnovato secondo questi nuovi criteri? No, il contratto a tutele crescenti riguarderà tutti i neoassunti. La specificazione del concetto di neoassunzione, di neoassunto, sarà patrimonio dei decreti attuativi, ma certamente non potrà riguardare chi ha già con quell'azienda con cui dovrebbe stipulare questo contratto avuto un'esperienza lavorativa. Ma chi ha un contratto quindi di assunzione a tempo indeterminato, ce l'ha già, poi quindi sta sicuro che questo non cambierà nulla, oppure potrebbero esserci delle modifiche, per così dire, retroattive, avvocato? Molti dei nostri ascoltatori sicuramente se lo stanno già chiedendo. Infatti. E quindi tranquilliziamoli. Okay. Tranquillizziamoli. Chi ha un contratto in essere, sia esso a tempo indeterminato, sia esso a tempo determinato, sia un altro qua, non potrà mai essere toccato in maniera unilaterale né con effetti retroattivi dalle riforme. Allora, 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione per le domande sui nuovi contratti di lavoro. Avvocato, conosciamo bene la differenza tra contratto a tempo determinato e indeterminato, la conoscono molto bene i ragazzi che naturalmente oggi vivono in prevalenza la condizione tra virgolette di precarietà e che rinnovano tempi determinati su tempi determinati, anche se forse dovremo abituarci in futuro ad avere questa condizione prevalente nel mercato del lavoro. Ma quello che vogliamo capire bene invece è in che cosa si concretizza la tutela crescente. Che cos'è questo istituto? Io vorrei che lei ci aiutasse a farlo capire ai nostri ascoltatori, magari attraverso un esempio che le faccio. Ammettiamo che domani mattina un nostro ascoltatore vada a discutere di un'assunzione con un'azienda, no? E gli venga fatta questa proposta. Cosa vuol dire la tutela crescente? Significa che questo neoassunto avrà sicuramente, dal punto di vista nominalistico, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi per il quale non è prevista una scadenza. Okay. Ma avrà un periodo che è di 3 anni, durante il quale la risoluzione di quel contratto sfugge alle regole attuali, cioè l'imprenditore può nell'arco di questi 3 anni risolvere il rapporto di lavoro senza che ci sia una motivazione particolare. La cosiddetta causale. La cosiddetta causale. Ma qual è la novità che viene introdotta? Che questa libera recedibilità, che ricorda molto... Che parola difficile che ha detto, la ripeto. Cioè, libero recesso, che ricorda molto quello che avviene durante il periodo di prova, viene però assistita da una tutela crescente, cioè è previsto che, per esempio, questo non lo so, saranno poi decreti attuativi, però possiamo immaginare che dopo 6 mesi di anzianità, quindi di lavoro effettuato, viene risolto il rapporto, ci sarà il riconoscimento di un preavviso, quindi di una tutela economica pari a 1 mese, dopo 8 mesi di anzianità, 1 mese e mezzo, crescente, fino ad arrivare a, non so, un preavviso che può essere di 3 mesi, 4 mesi. Quindi la tutela è crescente in termini di indennizzo economico che viene riconosciuto nel momento in cui il datore di lavoro decide di risolvere questo rapporto di lavoro per tutte le motivazioni che si possono scatenare, è questo in assolutamente. Sostanza. Cioè, la tutela... Io la vedo però, scusate, come un periodo di prova con una tutela, per 3 anni sei in prova, dai, diciamo la verità, o no? Stiamo entrando in quello che io non volevo fare l'interpretazione, ma è assolutamente corretto. Io mi tolgo voglio dire, si immagina di avere un contratto che nasce a tempo indeterminato, c'è un allungamento, molti autori hanno esattamente detto quello che è emerso in questo momento, abbiamo un periodo un po' più lungo di prova della possibilità di continuare questa relazione, e però nel momento in cui viene a cessare all'interno di questo arco temporale si immagina una tutela economica. Attenzione, quand'anche però questa risoluzione dovesse avere i caratteri della discriminazione, qua rientra poi l'articolo 18, eccetera. In ogni caso noi stiamo valutando l'ipotesi peggiore, cioè quella che questo contratto si debba risolvere perché magari non c'è più la condizione all'interno dell'azienda di mantenere questo rapporto di lavoro, però prendiamo anche in considerazione il fatto che possa andare tutto bene. Certo. No? Per l'azienda, quali sono i vantaggi della stipula di un contratto di questo tipo? Ma il vantaggio è quello che si diceva poc'anzi, in realtà il rapporto di lavoro è un rapporto molto complesso, non è un rapporto che può essere gestito con le norme, l'inserimento all'interno di un'organizzazione è un fattore umano, tecnologico, organizzativo, sociale, e quindi in realtà l'azienda ha un periodo molto ampio, molto lungo per vedere se quelle risorse, quell'organizzazione è assolutamente corrispondente al raggiungimento dell'obiettivo, dello scopo sociale. Una volta dopo il superamento del periodo di prova, che poteva essere di 15 giorni fino a un massimo di 6 mesi, quell'organizzazione non poteva essere modificata se non attraverso un licenziamento con tutte le conseguenze che conosciamo. Oggi diciamo che è molto più leggera e molto più facile l'operazione riorganizzativa, proprio perché è già stabilito che l'indennizzo è meramente economico ed anche la quantificazione è prevista dalla norma. Primo, ma l'azienda che assume con un contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti, visto che sarà la forma prevalente di contratto appunto a partire dal primo gennaio. Si prevede da gennaio, appunto. Ha anche vantaggi di tipo contributivo e fiscale di questo tipo di assunzione? No, diciamo che la previsione del contratto non porta con sé, come con l'apprendistato, vecchie forme del contratto di formazione e lavoro, anche un vantaggio di natura contributiva o fiscale. Questo non è previsto. È previsto in un'altra sezione, credo che sia proprio quella degli sgravi contributivi, ma che riguarda l'assunzione a tempo indeterminato nell'arco temporale 1 gennaio 2015, 31 dicembre 2015. È diciamo così però un incentivo alla ripresa, non è collegato a questo contratto, può riguardare qualsiasi tipo di contratto. 800 24 00 24, sentiamo i nostri ascoltatori che intervengono a cuore denari. Il primo di oggi è Paolo, che ci chiama dalla provincia di Varese. Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Per tutto, complimenti per la trasmissione, sempre grazie, molto Paolo. Interessante. La mia domanda era proprio legata all'ultimo argomento, nel senso, mi chiedevo se proprio ci fossero delle agevolazioni per le aziende per assunzioni per persone di età superiore ai 50 anni, perché sono tutte le varie apprendistato, come veniva citato dall'avvocato, tutte le varie leggi, e volevo sapere se c'era qualcosa proprio per favorire il reinserimento di persone over 50. Paolo, la ringrazio. Allora, magari relativamente, adesso spiegheremo a Paolo se Jobs Act prevede delle misure e contempla delle misure per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e nel mercato del lavoro di persone che a questa età rimangono fuori e hanno grosse difficoltà a rientrare. Mi chiedo se anche un cinquantenne, avvocato Rotondi, può essere assunto secondo le nuove regole contrattuali, il contratto a tutte le crescenti. Questa direi che è la novità. Quindi, intanto, più importante. È buono che non ci sia un limite anagrafico all'introduzione di questo contratto? Proprio perché questo tipo di contratto dovrebbe essere il contratto ordinario, non ha una previsione discriminatoria. Quindi questo contratto può essere applicato al neoassunto neo-occupato, come può essere applicato a chi ritorna all'interno del mercato del lavoro, magari perché ne è uscito a valle di situazioni di riorganizzazione e quant'altro. Non c'è un limite dal punto di vista anagrafico. Esatto. Il limite è e sarà poi specificato nei decreti di attuazione nel concetto di neoassunto, cioè non ci dovrà essere una precedente relazione fra il lavoratore non più occupato e quella società che va a riconciliare il contratto. Però ecco, misure specifiche per questa fascia d'età il Jobs Act non ne contempla. No. Diciamo, allora, è già tanto che non siano stati imposti dei limiti anagrafici alle altre forme appunto contrattuali. Esatto. Nella delega non è prevista una qualsivoglia forma di incentivazione collegata al contratto. Poi ci sono una serie di leggi invece speciali e specifiche che riguardano per esempio i cosiddetti svantaggiati, i lavoratori svantaggiati, ma che non riguardano il Job Act. Cioè abbiamo già una serie di provvedimenti che danno dei vantaggi a chi ricolloca coloro che sono magari fuori dal mercato del lavoro da oltre 2 anni, eccetera. Nella previsione specifica noi abbiamo solamente questo arco temporale, gennaio 2015, 31 dicembre 2015, dove le imprese che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori che non hanno avuto una precedente esperienza con loro, è riconosciuto uno sgravio contributivo, ma che riguarda l'attivazione dell'occupazione, non perché assumono col contratto a tutele crescenti. Questo è previsto dall'articolo 12 e è una specifica previsione. Certo che poi a sentire tutte queste novità ci si spiega molto facilmente perché qualche volta le aziende, anche non vogliono fare un dispetto a nessuno, ma fanno molta fatica anche, no, a stabilizzare i lavoratori e quindi preferiscono effettivamente contratti di lavoro a tempo determinato. Poi nella totale incertezza della legge, visto che questo settore è stato riformato ampiamente più volte negli ultimi 5 anni, per cui insomma è davvero complicato. Prima di sentire Giampiero da Bologna, volevo però fare un'altra domanda all'avvocato. Il contratto a tutele crescenti sarà la forma prevalente di contratto che potranno stipulare le aziende con i lavoratori, ma se una azienda volesse utilizzare un contratto a tempo indeterminato tradizionale, gli viene impedito? Assolutamente no, qualsivoglia forma deve essere scritto nel contratto, non mi interessano le tutele crescenti? Qualsivoglia forma di contrattualizzata a vantaggio del lavoratore libera, e lì sta nel potere contrattuale che avrà, ahimè, il lavoratore nei confronti dell'azienda. Certo è che da un punto di vista gestionale l'azienda andrà, credo, molto più su questa tipologia, proprio perché è libera in questo arco temporale di organizzarsi. Allora andiamo a Daniele che ci chiama da Milano. Buongiorno Daniele, poi passiamo a Giampiero perché infatti, Daniele era chiamato prima. Esatto, Daniele, ma siccome buongiorno. Evocavamo prima proprio quelle persone che magari stanno discutendo adesso di un'assunzione, allora sentiamo un po', queste ci sembrano delle buone notizie sotto Natale da raccontare, quindi Daniele benvenuto. Sì, buongiorno. Allora appunto io diciamo che stavo cercando lavoro, finalmente a quanto pare l'ho trovato. Evviva! L'azienda, scusi? Evviva Daniele, siamo contenti per lei. Ho fatto un po' di fatica, però l'azienda però mi dice, siccome c'è questo Job Act, perché si parla di assunzione a tempo indeterminato, io quasi quasi l'azienda mi dice rimanderei l'assunzione che doveva essere imminente a gennaio, e perché chiaramente avrebbe diritto a questi sgravi per l'assunzione a tempo indeterminato che del Job Act. E magari in questo mese qua di dicembre, siccome si tratta di lavorare, mi pagherebbe con dei voucher. Sì. Volevo sapere se è una procedura corretta e se il fatto di essere pagato, di lavorare diciamo a dicembre con dei voucher, magari non preclude poi a gennaio di poter essere assunto a tempo indeterminato per la stessa azienda. Grazie Daniele. Allora magari il voucher è una retribuzione corretta, vengono previsti i contributi, per cui Daniele non perde naturalmente dal punto di vista economico nulla. Era abbastanza naturale aspettarsi che con tutta questa confusione un'azienda partisse da gennaio con le nuove regole cristallizzate. Allora il procedimento che questa azienda ha in mente è assolutamente corretto anche da un punto di vista logico. Soffermerei un attimino su quello che dicevo prima, cioè il concetto di neoassunto. Allora sicuramente l'assunzione tempo indeterminato darà la possibilità alla società di avere quegli sgravi di cui ho parlato prima, però lui ha già un voucher, quindi una piccola assunzione io non è neo. Starei attento, io in questi giorni di dicembre preferirei quasi a favore sia dell'azienda ma soprattutto a favore dell'ascoltatore che lui non lavorasse per questa azienda, perché se per ipotesi il decreto attuativo dovesse poi stigmatizzare che avranno diritto agli sgravi o avrà diritto a un contratto a tutele crescenti solo chi non ha mai intrattenuto qualsivoglia forma di attività a favore di questa lui azienda, lui si brucia questa possibilità. Ci pensi bene, oppure 20 giorni. Adesso io non so che indicazione pratica anche dare all'ascoltatore, fare una scrittura privata tra lui e l'azienda per definire sin da ora patti chiari, amicizia lunga, la forma contrattuale, ecco, che ci sarà da magari mai. Non avere l'attività ma fare una lettera di assunzione subordinata alla emanazione del decreto attuativo per le modalità e quant'altro, questo sì. Io starei attento ad accettare questa via un sì, po'. Per lavorare questi 20 giorni ti precludi la possibilità di poter firmare un contratto. Perché solo una specifica, noi oggi non siamo, non abbiamo le leggi e i decreti attuativi, noi abbiamo oggi una delega al governo di legiferare rispettando dei principi. Quindi il contenuto dei decreti è fondamentale per capire gli sgravi, i vantaggi, le modalità, chi e come potrà attivare queste modalità. Vedi, l'avvocato vuole tornare, già l'ha detto tra le righe, dobbiamo... Ne siamo ben contenti. Volevo, adesso, i mercati ed è tardissimo, sì. C'è Laura che ci scrive al nostro indirizzo di posta, che ci scrive: premetto che vi seguo con molto interesse, vi apprezzo eccetera eccetera, mi domando perché quando si parla di disoccupazione nominate sempre solo i giovani. Scusate, ma chi non è più giovane cosa dovrebbe fare? Spararsi? Mi pare che vi siate dimenticati di questo problema. Alessia, le manderemo qualche puntata fatta in passato su questo argomento, Nicoletta lo ricorderà, con Walter Passerini, certo, con Carlo Bassi di Back to Work, per cui Back to Work già dovrebbe dire tutto. Ricordo che la disoccupazione giovanile in questo paese è al 43%, sì, 46%. 46%, Alessia, per cui naturalmente con tutto il rispetto per la sua situazione, lui, se vuole lei ci scriva e ci dia qualche dettaglio in più rispetto alla sua condizione, non ci dimentichiamo di nessuno. Per cui facciamo il possibile, dateci un po' il tempo. Cuore e denari. Tornerò fra 20 minuti. Cerchi di rilassarsi e di trovare il suo centro. D'accordo. Evviva Cuba Libre! Purtroppo non poteva soffocare le voci della strada. Non riesco a concentrarmi. C'è una stanza più tranquilla perché cerco di rilassarmi e trovare il mio centro, ma non ci riesco con questo. Charlotte, questa città non si calma mai. Lei deve imparare a bloccare il rumore di New York e ascoltare solo se stessa. Chissà quante volte vi sarà capitato di provare la stessa sensazione di fatica chi lavora in un open space, la conosce bene, ma non se la cava sicuramente meglio chi ha dei vicini rumorosi che tengono la TV a volume alto, passano l'aspirapolvere in ore improbabili, o chi vive in strade molto trafficate. Questa è una condizione che secondo uno studio europeo, pensate, rappresenta un fattore di rischio importante per la salute del nostro apparato cerebrovascolare. Bene, a partire dalle 11.45, come anticipato, parleremo di rumore, perché vorremmo dare insieme al nostro ospite, il dottor Sandro Burdo, medico audiologo, dei consigli. Cerchiamo di capire come evitare che questo rumore influisca così pesantemente sul nostro benessere. Allora, intanto voi potete prenotarvi al nostro numero verde 800 24 00 24, parlando di rumore, parleremo naturalmente di udito. Ci sono dei rumori che vi danno particolarmente fastidio, alcuni danno fastidio a tutti, fanno venire la pelle d'oca, il gessetto sulla lavagna, la posata che stride sul piatto, ad alcuni ce lo stanno già segnalando la voce della suocera. La mia ti dà fastidio? No, mi piace una musica. 800 24 00 24, fateci sentire la vostra voce e raccontatevi come se la cava il vostro udito. Se io fossi Renzi, metterei questa legge nello Jobs Act: ogni 2 dipendenti assunti, il terzo in omaggio. E così le assunzioni si impennerebbero, il mercato girerebbe. Certo, voi mi direte, vabbè, c'è un poverino che ogni mese non prende lo stipendio. No, si fa a turno. Come si fa a scegliere quando non viene pagato? Lo dice il nome stesso della legge che ho inventato io, del contratto che ho inventato io. Co-co-no. Co-co-no. Co-co-no. Queste sono le idee creative del terzo segreto di Satira. Nella realtà, per fortuna, il Coco no non ci sarà. In teoria dovremmo iniziare a vedere anche meno Coco pro, Coco co, Avvocato Rotondi. Proprio sì, nel Jobs Act, appunto, abbiamo spesso raccontato anche ai nostri ascoltatori come in questa riorganizzazione delle forme contrattuali ci dovrebbe essere anche un consistente sfoltimento di tutte le oltre 40 forme che conoscevamo. Quali sono quelle che più clamorosamente scompaiono? Ma visto l'impatto che avrà questa riforma, credo che le forme che andranno a scomparire perché non utilizzate è un conto, che scompariranno perché verranno abrogate è un altro. Quelle di cui si discuterà circa l'utilità, secondo me, saranno il contratto a termine, i contratti di somministrazione. Quelli che invece non saranno abrogati ma altrettanto verranno messi in discussione saranno i contratti di formazione, cioè quelli a carattere misto, che in realtà svolgevano lo stesso funzione sotto le mentite spoglie di quello che è il contratto di a tempo determinato a tutele crescenti. Si tratterà anche, secondo me, di fare un po' di pulizia terminologica, perché credo che molta confusione sia proprio sulla terminologia, sul nomen iuris che viene dato a un contratto, che molto spesso ha invece una finalità diversa da quella che ci immaginiamo. 800 24 00 24, il numero verde per le telefonate dei nostri ascoltatori. Adesso sentiamo Giampiero, che stava aspettando. Sì. Da un po', sentiamolo, benvenuto da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per competenza e simpatia. Volevo sapere, per le assunzioni nel pubblico, negli enti locali, sono previste le norme a tutele crescenti? Giampiero, credo che questa riforma lasci completamente fuori il pubblico impiego. Assolutamente sì. Non credo, lo lascia fuori. Assolutamente così. È impattato unicamente l'impiego privato, quindi le regole attualmente vigenti per la pubblica amministrazione, società partecipate, restano esattamente quelle precedenti. E quindi dovremmo parlarne più avanti, magari col ministro Madia, di tutto questo. Andiamo a Francesco da Milano, perché anche in questo caso parliamo di un contratto che mi pare venga firmato proprio oggi. Okay. Anche qua un applauso ci vuole. Francesco, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Ci dica. Niente, l'avvocato prima parlava della doppia situazione. Una, la possibilità di accedere a un nuovo contratto di lavoro. Secondo, il beneficio per l'azienda a partire dal 1 gennaio 2015 di avere una qualche agevolazione sui contributi. In entrambe le situazioni non ci devono essere dei precedenti rapporti di lavoro, mi pare aver capito. Beh, con quell'azienda lì, sì, diciamo per fruire delle nuove condizioni contrattuali, però... È una mia interpretazione, ricordo ancora che l'unica certezza che abbiamo è il concetto di neoassunto, la declinazione di questo concetto è rimessa al ai decreto decreti attuativi. Quindi, perché Francesco le interessava questo aspetto? Un contratto interinale che viene firmato tra oggi e martedì. In che condizioni si pone rispetto a queste due situazioni? Allora, intanto l'interinale è il contratto che viene firmato con un'agenzia, con un'azienda di collocamento. In no? realtà, se lei è in missione, dovesse essere in missione presso una società, lei non ha un contratto di lavoro diretto con questa società, pertanto non dovrebbe incorrere. È una somministrazione pura. Però ripeto, è nel campo delle 100 pertiche. Se vi ricordate il tema che ci fu col contratto a termine nella prima formulazione, dove si diceva il primo rapporto di lavoro, poi le interpretazioni furono mille. Per avere certezza di come si attuerà questa nuova forma contrattuale, quali saranno i limiti, dobbiamo avere il decreto attuativo, altrimenti le do delle idee. Faremo certo anche delle puntate con le società che operano in regime di somministrazione. Volevi chiedere qualcosa? No, anch'io immagino che per una persona che è lì come il primo nostro ascoltatore per firmare un contratto, saresti portato dopo mesi e mesi di ricerca del lavoro di dire lo acchiappo, certo, però diciamo se che poi questo ti preclude la possibilità di avere un rapporto di lavoro, no? Più indeterminato, però diciamo che oggi le grandi società che operano in regime di somministrazione sono piuttosto robuste, certo, e tutelano i propri lavoratori perché il rapporto di lavoro si stabilisce con loro, no, avvocato? Ecco, spieghiamo questo aspetto, allora, non è che tu lo stabilisci con l'azienda. Nella somministrazione, che voi alcuni chiamano ancora interinale, noi abbiamo un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, o a termine o a tempo indeterminato con una delle APL, delle agenzie per il lavoro. Quindi il rapporto diretto è tra società che somministra e lavoratore. Questo io la posso azzardare come interpretazione, secondo me non pregiudicherà mai una nuova attività tra quel lavoratore e la società utilizzatrice. Mm-hmm. Però, ripeto, siccome è un po' di anni che faccio questo mestiere, attenderei il decreto attuativo. Però insomma, se dovesse dare proprio un consiglio, sì, anche da lei è padre, naturalmente, proprio se dovesse indicare a suo figlio che oggi ha questa opportunità di firmare un contratto o con un'agenzia, con una PL o con un'altra azienda, meglio, come dire, l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, avvocato, oppure aspettiamo in questo regime transitorio di chiarire un po' meglio la natura dei nuovi contratti, perché con quest'aria che tira io un contratto oggi me lo prenderei al volo. Io credo di sì, perché al di là delle norme io ritengo che però la professionalità, la volontà è sempre ben apprezzata dall'imprenditore. Noi parliamo dell'imprenditore come colui che assume per licenziare. No, io non ci ho mai creduto a questa idea. Quindi anche se per ipotesi ci fosse un rapporto spurio in questi 20 giorni e poi i decreti attuativi dovessero dare invece indicazioni nuove, quella risorsa, di lavoro si assume oggi ma poi se gli cambiano le condizioni primo gennaio ti lascia a casa. Quella risorsa la mantiene. Infatti. Allora, ecco, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Abbiamo Mauro, non riusciamo a sentirlo. Lo sentiamo proprio se telegrafico. Mauro, buongiorno, ce la fa ad essere rapidissimo? Ci proviamo. Allora, forza. Niente, io chiamavo non tanto per conto mio quanto per conto di un'amica che praticamente è stata assunta da un'azienda con contratti a tempo termine, sei mesi, sì, con spazi tra un contratto e l'altro, esatto, a volte di una settimana, a volte di un mese, certo, se non ricordo male. Per creare la discontinuità. Esatto, la mia domanda era solo questa: siccome queste aziende fanno un po', mi passi il termine, il gioco dell'assunzione per lasciare a casa, per non avere un contratto a tempo indeterminato, dopo un tot numero di contratti, con questa nuova riforma del lavoro, c'è la possibilità che questa persona... Che scatti una stabilizzazione, Mauro, rapidamente, esatto, avvocato Rotondi, grazie. Assolutamente sì, non è del Job Act questa norma, ma questa è una norma specifica della legge, del decreto legislativo 368 del 2001 del contratto a termine. Benissimo. Che è regolamentato in modo preciso. Grazie avvocato Rotondi, in un'altra puntata parleremo di altri temi molto belli, la creazione dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, esatto, però insomma siccome siamo qua in un regime, come diciamo, un po' ancora, visto che è il termine più gettonato, nel lavoro precario dal punto di vista legislativo, quando avremo i decreti attuativi li commenteremo insieme a lei. Molto volentieri. E i nostri altri esperti. Molto volentieri. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Cuore e denari. Santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina. Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. Grandi o piccole a sventola o ben aderenti, leggermente a punta, modello elfo, tondeggianti, a topolino con lobo sfuggente ben pronunciato, ci possono piacere o essere un cruccio, per molte persone lo sono, ma una cosa è certa, sono strategicamente importanti. Parlo delle orecchie naturalmente, su questo siamo tutti d'accordo. Come sono le vostre? 800 24 00 24, fotografatele, descrivetecele, inviateci un messaggio, una mail, oppure chiamate per descrivercele. 800 24 00 24. Noi parleremo naturalmente non solo di orecchie ma soprattutto di udito, lo faremo con un esperto che ci piace in modo particolare, altro che, anche perché non l'abbiamo mai visto e perché sentendoci continua a sopportarci, il dottor Sandro Burdo, medico audiologo, consulente audiologico degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Buongiorno dottor Burdo. Buongiorno a voi, Nicoletta e Deborah. Eccoci, la sentiamo benissimo. Senta dottor Burdo, come ha lei le orecchie? Di la mia mamma, perché il cruccio non è di chi le porta, di solito è delle mamme, sì. La mia mamma le descriveva come fatte bene. Però le mamme, sai, come se non sono molto allora, oggettive. 800. Per le mamme è un cruccio, sul serio. Quando ho per i bambini, per gli impianti, piuttosto che la prima cosa che vanno a verificare se poi hanno le orecchie un po' a sventola, cioè non vanno a verificare molto spesso altre cose più importanti, ma l'orecchio a sventola è un cruccio. Senta, funzionano? Poi chiudiamo sulle orecchie a sventola, perché io le copro con i capelli lunghi, tu? Ce le ho, adesso te le faccio vedere, anzi le fotograferò. Da tutti questi anni che ti conosco non le ho mai viste. Servono i cerottini? No, quando i bambini sono piccoli le mamme stanno fanno attenzione? Proprio che è una cattiveria, assolutamente. Bravo. No, perché non, lì è un problema conformativo, cioè è un eccesso di cartilagine, non è certo il cerotto. Oh, adesso il nostro dottor Burdo è caduto, ma noi lo riprenderemo. D'altra parte, come diceva nella favola di Cappuccetto Rosso, sì, che orecchie grandi che hai, ma e così se servono per sentire meglio bene. Secondo me più sono grandi più un pochino aiutano. Adesso che riprendiamo il dottor Burdo, ci che facciamo. Proprio oggi mi diceva: quest'estate con Deborah abbiamo fatto una puntata, io ero in autostrada e ci siamo e non è caduta una volta la linea. È vero, e ci siamo divertiti. Dottor Burdo, lei non è che oggi abbiamo poi fatto la puntata quella sui possibili danni da vacanza, andare in aereo, come dire, fare il bagno e l'acqua che ti entra dentro, che cosa succede, quindi danni da vacanza un anche alle orecchie. Bagno in mare me lo farei anche. Dottor Burdo, altro che bagno in mare, lei ci fa venire un bagno di sudore, di paura, cioè, senza il dottor Burdo come faccio? Ciao, buongiorno, è ritornato. Sono tornato, ero uscito un attimo. Senta, dottor Burdo, orecchie grandi per sentire bene servono? Aiutano? Orecchie grandi sì, assolutamente, perché il padiglione non ce l'abbiamo solo perché migliora la nostra estetica, in realtà perfeziona anche l'udito e l'ascolto, perché enfatizza determinate frequenze. In alto funziona come un radar, perché la conformazione è quella di un radar, quindi fa convergere le onde sonore all'interno del condotto uditivo e le modifica anche. Vedi. Tant'è che chi ha il padiglione grande dovrebbe essere agevolato nella discriminazione soprattutto delle consonanti. Questa non la sapevo, me la spieghi bene? Ci spieghi un po'? Ripeto, siccome il padiglione è conformato in un certo modo, diciamo che modifica il suono al suo arrivo e permette l'ascolto migliore, più fine delle consonanti per quanto riguarda la voce, ma anche, perché no, anche della musica. 800 24 00 24, oltre a dirci che come sono le vostre orecchie, se sono grandi, vedi, è una virtù questa perché ci permette di sentire bene, come sentite e soprattutto quali sono i rumori che infastidiscono la vostra quotidianità, perché l'OMS dice che l'inquinamento acustico in Europa è un problema che influisce non poco sul benessere del nostro orecchio ma anche della nostra vita, è un problema della salute generale, dottor Burdo. Bah, assolutamente, perché il rumore, cioè tutti gli stimoli acustici, vanno a attivare una sostanza, una parte del cervello che si chiama sostanza reticolare, che attiva la nostra allerta verso i pericoli. Per cui se noi siamo allertati continuamente è evidente che poi alla fine risultiamo stressati, questo è il primo significato del rumore, poi può creare dei problemi anche all'udito, ma il primo effetto è sulla nostra capacità, sulla nostra serenità, ecco, chiamiamola così. 800 24 00 24, andiamo subito ai nostri ascoltatori, certo, che ci stanno chiamando. Si sono candidati dall'inizio della trasmissione, allora subito lo spazio è per Carla dalla provincia di Verona, alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Io sono un'insegnante di educazione fisica, ho 57 anni e da parecchio tempo insegno in palestre che sono male insonorizzate o per niente insonorizzate. E mi chiedevo, siccome da 2-3 anni almeno mi sono accorta che faccio più fatica a capire cosa mi dicono per esempio i ragazzi quando si avvicinano e mi chiedono qualcosa, oppure quando alla televisione guardo un film, soprattutto se c'è un sottofondo musicale non riesco a capire quello che dicono i personaggi, sì. Mi chiedevo se questo danno può derivare dalla mia attività in un ambiente rumoroso e soprattutto cosa potrei fare per impedire che il danno peggiore col tempo. Allora Carla, però facendo l'insegnante di educazione fisica, e sarà super in forma. Altro che. Ecco, quindi dottor Burdo, però lavorare in un ambiente rumoroso e poi mettiamoci anche un po' il passare forse degli anni, anche se Carla è giovane, possono essere delle cause di questa difficoltà che Carla descrive nel sentire, ad esempio i ragazzi quando vanno a chiederle qualcosa o il sonoro di alcuni film, ma se sotto c'è un sottofondo musicale, quali altri segnali sono da monitorare per capire se possono essere dei segnali che il nostro orecchio ci manda per dire sto iniziando a perdere qualche colpo? Ecco, Carla ha descritto, la signora Carla ha descritto perfettamente quali sono i sintomi iniziali di una sordità, ovvero l'ascolto in un ambiente rumoroso, le difficoltà di ascolto e le difficoltà nell'ascolto della televisione, perché lo stimolo acustico prodotto dalla televisione è intanto un po' distorto e poi la forma di comunicazione è molto difficile perché manca il dialogo. Quindi non sentire bene nel rumore e aver difficoltà con la televisione, questi sono i primi due sintomi, a cui aggiungiamo il terzo, di cui parleremo dopo, che è quello dell'acufene, orecchio che non funziona bene, per definizione fischia un po'. Quindi i tre sintomi sono scarsa attenzione nel rumore, scarsa comprensione della televisione e un po' di acufeni nell'orecchio. Allora, se vi riconoscete in questo profilo, non avete altro che da fare che chiamare il nostro numero verde, perché qualche cosa si può fare. E soprattutto chiamateci, sta arrivando il freddo, siete un po' deboli, tutte le volte che vi prendete un raffreddore, bam, arriva l'otite, come proprio puntuale, come una cambiale. Noi siamo qui con i consigli del dottor Burda, tra poco. Cuore e denari. E torniamo a parlare di rumore insieme al nostro esperto, il dottor Sandro Burdo, medico, audiologo e consulente audiologico degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Ci sente bene, dottor Burdo, in linea? Penso di sentire bene. Allora, ricordiamo quali sono invece i segnali che ci fanno capire che il nostro udito sta calando. Ne abbiamo evidenziati tre, dottor Burdo. Sì. Soprattutto non capire bene il rumore, al ristorante facciamo fatica, quando ci sono più persone che parlano, con difficoltà riusciamo a identificare la fonte, la sorgente di chi sta parlando, l'ascolto della televisione, i famosi acufeni. Questi sono i tre sintomi principali. I famosi acufeni, che sono del rumore che noi sentiamo in varie forme, può essere un fischio, un ruscelletto, dei suoni particolari che noi sentiamo proprio dentro al nostro orecchio, il rumore dentro, come lo definiscono alcuni ascoltatori. Dottor Burdo, questo è un segnale che il nostro orecchio un po' si è scassato? Esatto, molti attribuiscono all'acufene dei significati particolari, anche cognitivi, sbagliato, la maggior parte degli acufeni sono la conseguenza, cioè non si associano alla sordità, ma sono la conseguenza della sordità. E questo è importante sottolinearlo, perché la terapia evidentemente è rivolta alla sordità, non deve essere rivolta solo all'acufene, perché è come gestire il dolore di una frattura di un braccio. Il braccio va aggiustato e poi, se il dolore permane, ci daremo da fare per ridurre il rumore. Questo è un concetto fondamentale, perché molti pensano che acufene e sordità non siano associati. No, l'acufene molto spesso, non sempre, ma molto, nella gran maggioranza dei casi, è una conseguenza della sordità. Se noi curiamo la sordità, curiamo l'acufene, altrimenti l'acufene rimane. Quindi, individuata la causa, si può spegnere questo rumore che è molto invalidante, dottor Burdo, sì. Perché soprattutto si sente, certo, molto forte dopo che tu sei stato in un luogo rumoroso, vai in una zona, in un posto silenzioso e senti questo acufene, tanto che molte persone, dato che non riescono ad addormentarsi per questo fischio fastidioso, cosa fanno? Accendono la radio e si addormentano con il suono della radio, quello della TV. Sì, vero, dottor Burdo, che è una strategia che viene utilizzata da molti? E che è consigliabile, perché il rumore altrui è più accettato dei propri rumori, questo è il concetto. Per cui dotarsi di una televisione con l'autospegnimento è una buona strategia per addormentarsi senza ascoltare l'acufene. Non c'è però nessuna relazione di causa-effetto tra rumore, esposizione al rumore, e abbiamo parlato di inquinamento acustico, e l'insorgenza dell'acufene. Ma attenzione, sì. Non è così. L'acufene può essere il primo segno di una suscettibilità a diventare sordi per rumore. L'esempio, certo, è il ragazzino che va in discoteca. Il ragazzino che va in discoteca e sente un fischio acuto deve assolutamente allontanarsi dalla cassa, dalla cassa, ma anche uscire, anche perché l'acufene in questo caso è un segnale d'allarme. Scatta l'acufene, vuol dire il significato è: sto diventando sordo, esco la cofene scompare e quindi ho ripristinato la mia funzione uditiva. Quindi nel caso di sordità da rumore, la cofene è il sintomo iniziale di una sordità incipiente. Possiamo sentire questo suono, questo fischio, la cufene, lo descriviamo tutte le volte perché alcuni ascoltatori accendono ora, sentono ora la parola cufene e ci scrivono che cosa vuol dire, questo suono, fischio, ruscelletto, persistenza, un fischietto. È intermittente o persistente? Ce l'ha sempre? Io penso che ci siano delle situazioni differenti, dottor Burdo, e poi ci sono persone che lo avvertono in entrambe le orecchie, a volte solamente in uno. Orecchia. Ecco, ci sono anche persone che lo avvertono di più di quel che si dovrebbe, mi spiego. La cofene è una sensazione fastidiosa e dipende anche la sensazione, non la cofene oggettivo, quindi come noi lo percepiamo, dipende anche dalla situazione emotiva del paziente. Del paziente che nel momento in cui si innervosisce spesso si dichiara: quando sono più nervoso sento più forte la cufene. In realtà la cufene è sempre lo stesso, siamo noi che siamo diventati più nervosi. Ecco, questo è un concetto importantissimo. Questo è un concetto. Così come è importante la cufene improvviso in un chiamiamolo cardiopatico, cioè una persona che soffre di pressione alta, se la cufene insorge improvvisamente ed è acuto, vuol dire che c'è stato un rialzo pressorio. Ecco, quindi questo è sempre un segnale un po' da allarme. Naturalmente non parleremo solamente di acufene in questa seconda parte di trasmissione, vogliamo anche occuparci della salute, quindi dare dei consigli, se si possono considerare insomma di preventivi per mantenere a lungo la salute del nostro udito e anche delle nostre orecchie. Ci sono tra poco il rischio freddo e quindi otiti in agguato. Dobbiamo mettere le cuffiette quelle tutte colorate un po' col pelo. Pensa che bella foto, è per Natale. Allora, andiamo agli ascoltatori. Sì, andiamo a Barbara, poi a preannuncio già Nicoletta, se sei d'accordo, c'è Eli, un papà preoccupato perché ha questi figli che chiedono per regalo di Natale probabilmente lettori MP3, quindi lui vuole sapere se vanno bene anche questi auricolari per l'ascolto della musica o meglio optare per le classiche cuffie, poi ne parleremo. Barbara, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci dica, siamo qua. Io ho telefonato non per far domande ma per portare semplicemente la mia esperienza. Qualche anno fa mio figlio aveva 2 anni e mezzo, ha cominciato a sviluppare una serie di otiti ricorrenti, ne ha fatti 12 o 13 in un anno. Non sapevamo più che cosa fare, visite su visite, lavaggi del naso, l'hanno ricoverato in immunologia pediatrica per vedere se ci fosse qualche deficit immunologico. Però il bambino che frequentava il nido, a differenza degli altri che si ammalavano di qualsiasi cosa, dalla diarrea al vomito, alla varicella, febbri, lui aveva solo l'otite. E a questo punto io e mio marito, che probabilmente siamo delle voci fuori dal coro, abbiamo cominciato a chiederci se nostro figlio non ci stesse dicendo qualcosa. E in quel periodo noi non avevamo ancora imparato ad amarci nel modo corretto, per cui anche la nostra modalità di comunicazione non era bella, alzavamo spesso la voce, ritiravamo, non ci comprendevamo. E quando noi abbiamo cambiato il nostro atteggiamento tra di noi, il bambino ha cominciato a smettere di avere le otiti e sta benissimo. Per cui volevo semplicemente dire che molto spesso la malattia, prima di essere in generale, non solo per le orecchie, prima di essere affrontata a livello medico, va affrontata a livello emotivo, per cui dobbiamo chiederci che cosa ci sta dicendo il nostro corpo e che cosa ci stanno dicendo i nostri figli, che molto spesso mandano dei segnali a noi, non sono loro certo. Essere malati. Barbara, io direi che forse questi due aspetti vanno considerati, non c'è uno che va considerato prima e dopo, ma sarebbe importante forse considerarli in modo un approccio olistico, come si dice, a me la parola non piace molto, ma comunque sentire anche il corpo e la mente. Dottor Burdo? Assolutamente, direi non in un modo, può anche essere che il bambino in questo periodo di pacificazione tra i genitori sia anche cresciuto e che quindi le sue capacità immunitarie siano migliorate, però è evidente che una malattia vissuta meglio e può essere anche superata se l'ambiente in cui noi viviamo è sereno. Assolutamente, grazie, quindi ringraziamo Barbara per questa bella testimonianza e andiamo ai regali? Andiamo un po' allora, alle cuffiette. Esatto, alle cuffie. Dottor Burdo, che dobbiamo fare qua? C'è un modello particolarmente... Qua, l'OMS ha fissato delle soglie precise, raccomandando che la popolazione non venga esposta più di 65 decibel di giorno e 55 durante la notte. Numeri che però li leggiamo e ci dicono poco. Poi se mettiamo pure gli auricolari che sentiamo la musica ci dicono ancora meno. Dottor Burdo, ci dà un orientamento? Sì, sulle cuffiette, ecco, non demonizziamole, perché sa, spesso la tecnologia viene demonizzata, per cui il cellulare fa male, le cuffiette fanno male, tutte queste cose che nascono più dalla novità dell'oggetto più che da una reale considerazione. Ora, ascoltare la musica significa sentire dei suoni che variano come intensità nel tempo. Uno dei motivi per cui si diventa sordi è la continuità dell'esposizione alla sorgente sonora, quindi la musica per definizione non dovrebbe essere causa di sordità, perché è un suono che varia nel tempo in intensità. Sì. È chiaro che se io la tengo molto alta, la variazione è ininfluente, divento sordo, questa è una cosa abbastanza ovvia e evidente. Come facciamo ad accorgerci se le cuffiette possono essere dannose a un ragazzino? Se noi sentiamo la musica, noi all'esterno. Se noi all'esterno. A me capita, viaggiando in metropolitana, dottor Burdo, tante volte io mi siedo vicino a dei ragazzi e ascolto la musica che sentono loro. Sì. Assolutamente, però non posso dire guarda che senti la musica alta, perché... e non hanno mai esattamente la musica classica, in genere hanno il tum tum tum, quello insomma da discoteca. Quindi se sentiamo la musica dei nostri figli dobbiamo dire abbassa ste cuffiette. Tenete presente che i riproduttori, quelli più seri, hanno delle limitazioni che vanno attivate, quindi i genitori possono andare a verificare nelle impostazioni dello strumento che sta usando il ragazzino se queste limitazioni sono attive oppure no. Per quanto riguarda invece cuffia o inserti auricolari, c'è da discutere, perché la cuffia isola completamente e quindi noi non sentiamo all'esterno se tutto funziona come dovrebbe funzionare, ma nel contempo non fa percepire all'ascoltatore il rumore esterno. Teniamo presente che noi alziamo i volumi perché dobbiamo far sovrastare il messaggio, il segnale che ci interessa rispetto al rumore di fondo. L'esempio banale in automobile: quando noi deceleriamo e siamo fermi a semaforo, abbassiamo il volume della radio, dell'autoradio, perché era evidentemente alto, ma era alto perché mentre andiamo dovevamo alzarlo, perché in questo modo sovrastiamo il rumore del motore. Così le cuffie ci tolgono sì il rumore esterno e quindi teoricamente dovrebbero essere meno dannose dell'auricolare, perché quello che si chiama l'effetto Lombard, cioè non alziamo automaticamente il volume per sovrastare il rumore di fondo. Allora, speriamo di aver dato dei suggerimenti, certo, al nostro ascoltatore, che quindi potrà scegliere seguendo proprio i consigli del dottor Burdo. Abbiamo tante telefonate. Messaggi. Vogliamo, esatto, leggerne uno? Sì, ne leggiamo uno, che adesso lo volevo anche dire a chi ci scrive che ascolta sempre Radio 24 con le cuffiette. Continuate a farlo con gli auricolari, noi siamo balsamo per le vostre orecchie, per cui non siamo dannose, almeno speriamo anzi di essere costruttive con forma e contenuto. Ci facciamo fare un certificato dal dottor Burdo. Molto bene, poi salutiamo, ci manda i suoi saluti cremonesi, io non so, lo mette fra virgolette, non so se questa persona si chiama Alabardo, noi prendiamo atto, però questo ascoltatore ci scrive, dottor Burdo, che dopo una ferrata sul Paterno, non so cosa sia questa avventura, comunque gli capitò un episodio di acufene con dolore acutissimo dovuto a vento gelido in quota. Da allora sono molto suscettibile al freddo e ho ridotto le mie capacità uditive. Cosa posso fare per il futuro oltre a proteggermi dal freddo, visto che arriverà questo arriva. Allora, consigli del dottor Burdo per salvare orecchie e udito, di dottor Alabardo. Burdo, non solo di Alabardo, anche nostre. Ma il freddo, dal freddo ci si difende non solo coprendo le orecchie, attenzione, ci si difende coprendo le estremità, quindi la testa, i piedi e le mani. testa ci si mette il cappello, le mani, i guanti e si va in giro non con le ballerine come fanno certe ragazzine, ci si mettono, lo dico perché io ho tre figlie che ogni tanto hanno questo vezzo di uscire con le ballerine anche d'inverno, i piedi vanno coperti perché le estremità sono le prime a raffreddarsi, quindi noi il raffreddore non lo prendiamo, o l'otite non le prendiamo solo perché prendiamo direttamente il freddo sul naso o sull'orecchio, ma perché raffreddiamo le estremità, quindi le estremità vanno coperte. Ecco, ma le figlie del dottor Burdo, non, come sempre, nemo profeta in patria, continuano a utilizzare ballerine e magari senza calze. Comunque, quindi copriamo bene i piedi belli al caldo, le mani, il cappello, la sciarpa, perché se no ci becchiamo l'otite, raffreddore e quindi otite. Ma oltre a questo, dottor Burdo? Per quanto riguarda il freddo? Sì. Ah, per quanto riguarda il freddo, certo che le cuffiette, quelle che prima ha descritto Deborah, sono efficaci, queste da mettere sono anche carine. Insomma, dai. Ovviamente, ma per le ragazzine, dai. Ha detto per le ragazzine, vedi, quindi ha detto per noi due. Voi vedete di mettervi un cappello decente, ecco, non Dottor Burdo, in questo periodo sono da consigliare i lavaggi nasali, aerosol, funzionano, hanno un ruolo preventivo? Così rispondiamo. Allora, sì, ho capito. Queste cose che non sono molto naturali. Una volta le nonne lo facevano con l'acqua e sale, che è la stessa cosa che si fa oggi con questi lavaggi. L'acqua dell'oceano usano le mamme. Ecco, l'acqua se è pacifico è meglio dell'Atlantico. È una battuta. Non L'avevamo capita, dai. Ok. Secondo me la mucosa nasale è veramente delicata, quindi meno la si bistratta meglio è. Le cose vanno fatte quando ce n'è bisogno. Andare a fare della prevenzione continuando a stimolare la mucosa, quindi irritandola un po', perché il sale irrita per definizione, questo è il motivo per cui dopo noi ci liberiamo il naso, è perché lo irritiamo, quindi farlo tutti i giorni, soprattutto un ragazzino, non va bene. Ecco. No, non solo, io ricordo quando ero io ragazzino che c'erano questi affari che si infilavano nel naso con del tipo Vicks Vaporub, cioè avevano questo sensazione di pino, sì. E a un certo punto la gente era dipendente, andava in giro solo con quegli affari nel naso per liberarsi il naso, proprio perché le mucose venivano irritate e poi non erano più in grado di rispondere agli stimoli, quelli naturali. Non eccedere sul naso. I tappi per le orecchie, sì o no, per proteggersi dal rumore o per dormire? Ecco, per dormire un altro paio di maniche, perché protegge il tappo non è efficacissimo, perché produce una riduzione di 20 decibel, per cui se io sono sottoposto a un rumore di 100 decibel, ed è questo che dà fastidio soprattutto alle orecchie, io lo porto a 80, che è sempre meno dannoso del 100, ma rimane sempre 80. Per proteggersi veramente dal rumore che produce lesione all'udito bisogna usare le cuffie. Se invece vogliamo proteggerci dal rumore che ci dà fastidio, come può essere quello del traffico sotto casa, usiamo pure i tappi. Teniamo presente che i tappi sporcano l'orecchio perché non permettono l'evacuazione naturale del cerume dall'orecchio, perché mettendo il tappo non permettiamo al cerume di uscire. Quindi possono essere causa di tappi di cerume. E poi col tappo di cerume è una delle cause che può giustificare un po' un calo dell'udito. Non sentiamo bene, andiamo dall'otorino e ci dice: ma lei ha un tappo di cerume, si lavi bene le orecchie. No, non dice così. Mauro, sa che la invitiamo a scriverci così anche. Magari in 5 secondi ce la fa, proviamo. 5 secondi, proviamo. Pronto? Sì, Mauro, veloce. Io praticamente volevo solo dirle che io a 15 anni ho avuto un'otite. Sì. E da allora praticamente io sempre, costantemente, ho un fischio basso all'orecchio sinistro e ho fatto qualsiasi cosa ma non riesce a passare. Grazie Mauro. Allora Mauro, sa cosa deve fare? Deve scriverci e noi mandiamo la sua mail al dottor Burdo. Con la scrittura si risolve tutto. Grazie al dottor Burdo. Grazie molte, buon grazie weekend naturalmente, arriva il frescolino, coprite le orecchie, andate con le scarpe anche un po' robuste, non le ballerine. Salutiamo e ringraziamo Gianmarco Ferronato in regia della parte tecnica, Laura Vanossi. Grazie a te naturalmente, a te. E noi ci ritroviamo qua lunedì, anche se l'8 dicembre noi ci siamo, con voi. Ciao! Cuore e denari.